La videoinchiesta racconta la storia di una famiglia dalla Calabria, appunto, è arrivata in Emilia-Romagna, in particolare a Bologna, portandosi società e affari. E partendo, diciamo, da questo caso, proviamo a raccontare quali sono le relazioni e le connessioni che questa famiglia ha, ecco, connessioni che arrivano fino a un potente clan di 'ndrangheta, che è quello dei Piromalli. E da qui partono, diciamo, le nostre riflessioni e le domande per chiederci quanto questo elemento che riguarda la contiguità, che riguarda le connessioni e le relazioni, impattano poi sul mondo economico della nostra città e della nostra regione. Come nasce l'idea di realizzare questa inchiesta e qual è l'obiettivo principale? Noi, diciamo, lavoriamo in un modo diverso, nel senso non partiamo con un'idea nostra, ma partiamo sulla base di segnalazioni che ci vengono fatte dalla cittadinanza. E quindi in questo caso, diciamo, abbiamo unito alcune segnalazioni a elementi che abbiamo letto nelle tante carte giudiziarie che abbiamo esaminato. Unendo questi due puntini, siamo partiti a lavorare su questa storia. L'obiettivo è far riflettere sulla presenza non solo delle mafie oggi nella nostra città, che è sempre più silente, è sempre più normalizzata, ma soprattutto perché poi appunto questa famiglia non è mai stata condannata per mafia o per associazione mafiosa o per concorso esterno, quindi non è solo riflettere sulle mafie oggi, ma anche su appunto quelle figure che possono essere contigue, quelle figure che eventualmente possono essere disponibili, che hanno un capitale di relazioni che può essere immesso nel mondo economico, imprenditoriale e sociale della nostra città e della nostra regione. Quindi l'obiettivo, un po' complicato forse, però è riflettere su esattamente questo punto, cosa vuol dire oggi contiguità, che cosa vuol dire appunto relazioni, connessioni, cosa vogliono dire quei non detti che però si sanno, la storia che si porta, alcune zone d'ombra, ecco, quanto influiscono sul mondo che viviamo in un contesto in cui le mafie, la 'ndrangheta cercano sempre di più una normalizzazione, cercano sempre di più un'accettazione nel mondo economico e sociale delle nostre città. Ti chiedo in ultimo, perché secondo te è importante raccontare storie come questa e quanto è importante essere consapevoli di queste vicende? Per noi è molto importante perché appunto è un salto di scala che si deve fare. Accettare, diciamo, questa normalizzazione delle mafie è un enorme problema per la nostra società. Le mafie l'hanno capito benissimo e quindi, a parte una parentesi sicuramente lunga e dolorosa del nostro paese, che è quella appunto delle bombe e degli omicidi eccellenti, che però comunque nell'ambito della storia delle mafie è stata una parentesi, hanno sempre ricercato il silenzio, hanno sempre cercato gli affari nascosti e hanno cercato quelle connessioni anche con mondi della politica, dell'imprenditoria, dei poteri, della massoneria, che sono quelli che poi contano e che indirizzano la storia del nostro paese. E quindi provare a far emergere tutto ciò, provare a riflettere insieme alla cittadinanza su questi temi, per noi è centrale per dare un futuro diverso al nostro paese, non orientato nell'ombra da questo tipo di relazioni, di connessioni e di poteri, che invece si parlano molto e appunto, come dicevo, orientano la storia del nostro paese in una certa direzione. È difficile perché non sono temi sentiti dalla cittadinanza, non creano allarme sociale, ma per noi sono davvero centrali per affrontare il futuro del nostro paese, perché altrimenti, adesso dico una frase molto alta, però è chiaramente la democrazia si svuota di senso se poi le vere decisioni vengono prese nell'ombra da personaggi che hanno interessi dubbi e che spesso navigano nell'illegalità.